imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesak Portnar. Parte prima, Baderek el al Sulam, sulla via per la scala. Lezione numero 13. Ascolta solo, cerca di renderti ricettivo e non pensare cosa ne capisco. Ogni cosa viene in tempo, devi sperimentarlo. La Kabbalah, lo spirituale, non può essere compreso. Sperimentalo, e se lo sperimenti, allora lo capirai. Non puoi contare nello spirituale sulla comprensione. Devi contare sull'esperienza. Cosa ti dà la luce? Questo ti dà la luce. E come effetto collaterale arrivi a capirlo. Mentre nel nostro mondo vogliamo prima afferrarlo con la nostra mente. Questo è impossibile nello spirituale. Ora iniziamo con Zohar, commento di Asulam. Zohar non è difficile. Lo spirituale non è difficile. La tua stessa resistenza lo rende difficile. La tua mente vuole governare. Quello è il problema. Se impari a renderti ricettivo per lo spirituale, che non vuoi essere il capo, non metterti sotto i tuoi stessi piedi, allora lo sperimenterai. Sii ricettivo alla luce. Non puoi capire le informazioni spirituali con la tua mente. Renditi ricettivo e lo capirai. Non hai ancora un serbatoio per iniziare a sperimentarlo. Nell'ultima lezione abbiamo detto che la prima fase del ricevimento della Nukva è che lei riflette i suoi 5 Gvurot su e riceve dentro lì 5 Chassadim di Zeirampin, 5 luci di misericordia, e lì lei riflette su il suo proprio potere, potere femminile, Gvurot, Dinim, rigore. Zohar lo confronta con una coppa, coppa di benedizione. Se parliamo di benedizione, allora sappiamo che è il numero 10. Gvurot, Din, rigore, si riflette e dentro lì viene la luce Chassadim. Ma questa è solo una preparazione e non l'obiettivo. È detto che questa è Berakah, benedizione. Ricevere la benedizione è la prima fase nel ricevimento di luce, la correzione. Poi dice, quello significa che il significato di esso è che lo posizioniamo su 5 dita della mano sinistra. Zohar traccia un parallelo tra l'attrazione della benedizione e la collocazione della coppa nella mano sinistra. Qual è l'intenzione? Sappiamo che la benedizione è per lo più pronunciata, ad esempio, all'inizio di un giorno di festa, bevendo il vino. Metti la tazza su 5 dita. Lui dà un suggerimento che devi prima mettere la tazza nella mano sinistra. Perché? Sinistra significa Gvurot, Dinim. La metti prima sulle 5 dita della mano sinistra, Gvurot. Questa è allora la prima fase di ricevere la luce. le gvurot sono le cinque dita della mano sinistra, l'elemento femminile del sistema operativo dell'universo, perché lei riflette cinque gvurot e lì dentro arrivano cinque chassadim, cinque luci di misericordia. La nukva è con questo addolcita. La sua severità diventa meno pesante, perché chassadim è ora dentro la severità. Questa è la prima fase. Quindi mettilo prima nella tua mano sinistra. Avevamo detto che la nukva prima ha cinque foglie dure e dopo ha abbastanza potenza per riflettere la luce dei suoi gvurot e la luce chassadim può entrare. Questo è chiamato nel linguaggio del sentimento o della Torah ricevere la benedizione. Diciamo questo del numero 10. Ma questo non è abbastanza. Le cinque dita della mano sinistra, che sono cinque gvurot, qualità del rigore, perché cinque dita della mano destra, che è il segreto di cinque chassadim. Destra è chassadim. Se mettiamo da parte la coppa per un momento, allora si intende così, due mani. Non è una coincidenza mani. Vedremo che anche in un parzuf nelle 10 sfirot le mani sono chesed e gvurot, qualitativo. I 10 sfirot sono anche fatti nella forma di un essere umano. Keter, kokma, bina, chesed, destra. Gvura sinistra. Chesed e Gvurot sono anche mani. La mano destra è Chassadim e la mano sinistra è Gvura. Poi vedi anche cinque. Cinque della mano destra sono Chassadim, misericordia, e i cinque della mano sinistra sono rigore, din. Poi dice che le cinque dita della mano destra sono chassadim, per così dire che un essere umano inizierà a sentirlo e possa confrontarlo con la coppa in cui entra la luce o il vino. È lo stesso. Questo avviene anche nella religione. Devi pronunciare una benedizione sopra il vino e berlo. È tutto spirituale. Ovviamente lo hanno reso una tradizione nel nostro mondo, ma sappiamo come sta la questione. Le cinque dita della mano destra simboleggiano i cinque chassadim, i cinque poteri di misericordia. Le cinque dita della mano sinistra sono cinque poteri di rigore, potere femminile. Destro è maschile, che dà, e il femminile riceve. La coppa in due mani. Se qualcuno sa di cosa sta parlando, allora come è che era stato prima messo in due mani? Perché? La mano sinistra è Gvurot e la mano destra è Chassadim. La mano destra, le cinque dita a destra, si assicurano che la luce entri. Come succede? Normalmente la luce viene da sopra a sotto, la si sperimenta da sopra a sotto. Se è luce Chokmah, allora viene davvero da sopra a sotto. Se è Chassadim e Gvurot, sono lo stesso tipo di poteri, i chassadim sono allora solo misericordia e Gvurot una sorta di reazione alla misericordia, un tipo di antipolo di misericordia, ma dello stesso tipo. Una creazione, anche noi come creature sperimentiamo misericordia nella larghezza. Non tutto è alto-basso. Sperimentare spazi di ampiezza dentro di te è segnato da Chassadim. Capisci, pertanto, è presentato come a destra e a sinistra. Anche nell'albero di vita puoi vedere che Gesed è destro e Gvura è sinistra. E in basso, Netzach a destra e Hod a sinistra. Perché? Perché il potere di Chassadim è nel senso di larghezza. Anche noi lo sentiamo. Se vedi un povero nella strada e gli dai qualcosa, provi un tipo di sentimento, esprimi simpatia anche nel nostro mondo. Certo, non è la luce di ciò che stiamo parlando, di cui stiamo parlando. Qui parliamo di luce spirituale, ma anche tu poi sperimenti qualcosa di ampiezza, di calore, eccetera. Questa è anche un tipo di riflessione della luce Chassadim, misericordia, amore che sperimenti. Ma quando ad esempio leggi un passaggio difficile di Zohar e devi usare la tua mente di saggezza superiore, allora hai anche il sentimento che la luce viene da sopra a sotto, proprio come la saggezza è sopra di me, il creatore è sopra di me, e allora ricevi da sopra a sotto. Ma la misericordia è un altro potere, un po' più debole, solo dà, ed è come se fosse visto in ampiezza. Le cinque dita a sinistra sono i cinque Gvurot, e le cinque dita a destra sono i Chassadim. Destra dà sempre a sinistra, poiché destra è sempre maschile e sinistra è sempre femminile. Destra dà a sinistra. Qualitativamente parlando, la destra si trova superiore che la sinistra. Ma poiché riguarda la luce Chassadim, lo mettiamo nel senso di larghezza, orizzontale. La correzione comincia sempre da sinistra. Destra aiuta la sinistra a correggere, ma la correzione è necessaria nella sinistra. L'elemento femminile, anche nell'essere umano, ha bisogno di correzione. Il nostro ego, il nostro amore per noi stessi, qualità non corrette, hanno bisogno di correzione ed è chiamato potere femminile, anche in un essere umano. Se un uomo è governato da un certo stato del suo ego, il suo amore per se stesso, allora mostra una parte femminile di se stesso, anche quando pensiamo che sia diverso nel nostro mondo. Se un uomo è disposto a dare, solo a dare, allora è il suo lato maschile. Pensiamo l'opposto nel nostro mondo. Pensiamo che una donna dà, ma una donna riceve. Una donna ha anche due lati. La destra è donatore rispetto alla sinistra. La luce viene prima a Chesed. Lo abbiamo visto con i 10 Sfirot di Adam Kadmon, quando non c'erano ancora tre linee. prima c'erano 10 sfirot l'uno sotto l'altro, con Adam Kadmon, Keter, Kokmah, eccetera. Nel principio era così, ma costantemente, perché nell'inferiore arriva un uomo. Parliamo solo di sinistra e destra nel mondo Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiyah, ma non in Adam Kadmon, perché ogni cosa è ancora lì sottile, vuoto, non ci sono ancora Kelim. Dice che prima dobbiamo metterlo nella nostra mano sinistra e poi pronunciare la benedizione. Pronunciare la benedizione significa che attiri la luce a te stesso. Lasci che la luce provenga da Zerampin e da Malkut, che vada sopra e ritorni alla tua mano destra, Chassadim. Lo fai insieme. La mano sinistra riflette e la destra dà. Facendolo insieme significa che c'è un'unità. Durante la pronuncia di ciò nella sinagoga o chiesa, la persona che sta per pronunciare la benedizione prende la coppa nella mano sinistra, perché ogni cosa viene prima nella mano sinistra. Nulla viene da sopra se non è stimolato da sotto. I 5 gvurot della Nukva funzionano esattamente nello stesso modo. Prima deve essere stimolato, le 5 foglie dure sono riflesse e poi anche la seconda mano è messa sulla coppa. Ciò significa che lì è un'azione combinata tra misericordia e gvurot. La destra allora dà misericordia, per così dire, alla nukva. Capisci? 5 dita della sinistra formano come fossero cancelli, serbatoi in cui la luce Chassadim può entrare. Questo è il significato di 2 mani. Basta ascoltare, non devi capirlo. Più tardi Sulam ci darà una grande spiegazione sotto la prossima pagina. È un grande commento nel quale è spiegato cosa significano 5, 10, 13, benedizione. Ce lo spiegherà in un linguaggio moderno, non nel linguaggio di Zohar, ma nel puro linguaggio della Kabbalah. Il senso è di imparare costantemente il linguaggio della Kabbalah. Vedi con quante parole ho bisogno di spiegare tutto questo, mentre nel linguaggio della Kabbalah posso dirlo in 5 o 10 parole. Quindi prima lo metti nella tua mano sinistra, poi li unisci insieme e poi lo metti nella tua mano destra. Perché prima la sinistra? Perché l'ascesa deve venire da sotto. La sinistra è femminile, è sotto, e deve prima essere sollevata lasciando i suoi gvurot che riflettano, e poi lo porti nelle 2 mani. Devi lavorare su un'intenzione, kavanah, dentro di te, prima di pronunciare la benedizione. Se un uomo comune la pronuncia e poi lo beve, è giusto. Ma se lo fai venerdì sera, di Shabbat o un altro momento, e hai l'intenzione di sollevare nella tua mano sinistra per il superiore, chiedi al superiore la luce perché dentro di te sei pieno di rigore. Poi, quando pronunci le parole e le colleghi con il superiore, lasci la luce splendere sotto, che passa attraverso la mano destra. Dentro di me ho bisogno di avere l'intenzione di collegarli entrambi. la rigorosità fa come se fossero sale, cancelli in cui la luce della misericordia può entrare, che è chiamato Kos Berakah, coppa di benedizione. La Nukva la riceve e restituisce luce Chassadim all'essere umano che pronuncia la benedizione, o nel numero 10. Con questo lo stato di din rigore della legge si mescola alla misericordia. Questo è allora in qualche modo uno stato corretto. E per questo motivo uno deve sollevare la coppa con due mani. Quindi prima una e poi due mani, cioè anche insieme con le cinque dita della mano sinistra. Il significato della creazione è prendere parte al piano creativo. La creazione è creata e l'ultimo tocco deve avvenire in cooperazione tra la creazione e il creatore stesso. Il creatore è nella Kabbalah il sistema operativo dell'universo, ossia è ciò che impariamo. L'inferiore deve essere elevato, ricevere dal superiore e poi tornare alla propria posizione, ma poi raffinato. Torna sotto e porta tutto il bene con lui, ossia è ciò che impariamo. Questo è predestinato nel piano creativo. Lasciare un indizio per allude a l'intenzione, come detto sopra, sui cinque gvurot. Stiamo costantemente andando a usare più parole inglesi. Non dobbiamo parlare ebraico, ma dobbiamo usare costantemente termini cabalistici che sono pieni di potere. Quindi lasciamo un indizio che i cinque gvurot, quindi se tiriamo la sinistra a destra, lasciamo un indizio che sinistra è gvurot ed esse vengono insieme con i chassadim. Gvurot dà spazio e lei è il trono in cui la luce chassadim entra. Fino ad ora non abbiamo detto nulla. Siamo appena andati prima alle azioni nella mano sinistra, poi in entrambe le mani, tenendo conto dell'intenzione in noi stessi di portare insieme Gvurot e Chassadim. Gvurot avvia l'approccio in nome dell'unità. Il senso dell'intera Kabbalah è di raggiungere l'unità nel livello superiore. Chi di noi che studia con noi conosce l'unità? Tutti conoscono solo il contrario. Tutti quelli che iniziano a lavorare su se stessi, e quello è buono. L'uomo nella strada non si sente strappato da tutti i tipi di poteri. È buono che tu lo senta. Poi li riunisci, tu o Nukva è lo stesso. Devi sviluppare il potere per alzare i Chassadim. Chassadim è superiore di potere di Gvurot. Dobbiamo tirare sopra Gvurot, il potere femminile, renderlo ricettivo per i Chassadim. Lo simbolizziamo tenendolo in due mani. Poi pronunciamo la benedizione. Le mani, quando lo facciamo, simboleggiano Chesed, Gvura, Tiferet, la parte centrale delle Sfirot. Quello che sto cercando di dire non è assolutamente difficile, ho solo bisogno di molte parole. Dobbiamo tirarle da qualche parte dentro di noi, ma non abbiamo un posto per sperimentare le informazioni spirituali, e quindi sembra difficile. Guarda le azioni che facciamo con le nostre mani. Sono tutti atti in Chesed, Gvura, Tiferet, la parte centrale dei nostri 10 Sfirot. Il significato è che sperimentiamo i 10 Sfirot. Abbiamo detto che la mano destra è Chassadim e la mano sinistra è Gvura. Con cosa pronuncio Berakah, benedizione? Con la mia bocca. La bocca è la parte inferiore della testa, per così dire, di Keter, Kokhmah e Binah. La bocca è la Malchut di Binah, il superiore della bocca, della testa. Va tutto a Ein Sof, poi va alla mia testa, viene alla mia bocca e quando io pronuncio con la mia bocca, viene dalla mia bocca giù al lato destro. Qual è la prossima sfira sotto la Binah? Chesed. Quando la pronuncio, poi io tiro la luce dalla testa e va a Chesed. Poi Chesed lo dà all'inferiore, poiché il superiore dà sempre all'inferiore. Coinvolgiamo il superiore in questo. Pertanto lo pronunciamo con la nostra bocca. Nella Kabbalah bocca si chiama Pe. È Malchut di Binah, l'ultima sfirà di Binah. È grandioso quando inizi a sperimentare questo. Vedrai che nulla al mondo può essere paragonato a quello che ricevi qui. Tutti i tesori del mondo non valgono nulla a confronto di sperimentare l'eternità. Cosa possiamo sperimentare nel nostro mondo? Cibo, bevande, sesso e allora un po' di soldi, un po' di potere, tutte cose infantili. Tuttavia, all'inizio di pronunciare la benedizione, si deve tenere la coppa solo nelle 5 dita della mano destra. Abbiamo detto che Malchut ottiene sempre il superiore. Prima si solleva Chesed, a Zerampin, e da Chesed va fino alla Binah. Ne abbiamo già parlato di questo. Dalla sua posizione di Malchut, lei va fino a Zerampin, al superiore. Nello spirituale tutto è gerarchico. Anche nel nostro mondo tutto è gerarchico. Non vediamo solo la gerarchia. Superiore, inferiore. Il Creatore ha creato ogni cosa in questo modo, gerarchico. Lo stesso è nel nostro mondo. Esiste il top delle 500 persone più ricche dell'Olanda. Hai anche il top delle persone più ricche del mondo. E in cima alla piramide si trova il signor Gates. La piramide esiste in diversi aspetti, ma non dobbiamo guardare agli altri. Devi sempre guardare alla tua propria piramide. Devi vedere la tua piramide e non una superiore. La tua propria piramide nello spirituale deve avere una tale priorità che tu continuamente sali più in alto. Quando lui dice che prima tu tieni la coppa nella mano sinistra, poi con entrambe le mani, la Nukva si è poi fusa, ha fatto Zivug. Nello spirituale ogni ascesa accade attraverso lo Zivug. E poi tieni la coppa solo nella mano destra. Perché non è permesso suscitare il succhiare, l'attaccare del Sitrach Akrach. L'abbreviazione di Sitrach Akrach è S.A. La traduzione di questa parola aramaica è l'altro lato e significa potere impuro. L'altro lato, non questo lato, è la parola per il potere impuro. Sitra akrah è comunemente usato. Sitra è lato e akrah è altro in ebraico. Con questo si intende potere impuro. Può anche essere Satana, tutto il potere che si oppone alla santità. Tutto il potere che prova di tentare l'essere umano a ricevere per se stesso, egoisticamente. Se ti sforzi, sviluppi il potere per il bene. Allora tu indebolisci il Sitra Akra. Allora tu indebolisci il potere impuro. Il mondo è fatto in questo modo. Ze leumat ze asa Elohim. Il creatore ha creato l'uno verso l'altro, così che ci potesse essere una sana battaglia per il bene. Così l'uomo non sarebbe un robot, ma potrebbe avere una libera scelta. Pertanto è fatto in questo modo, anche se può essere difficile. Perché non potevo stare nell'incubatrice quando ero nato? Durante quel tempo è stato divertente e piacevole. Non sta a noi dire come lo vogliamo. Come l'uomo è fatto, per quale scopo, devi lottare per quello e non pensare con desiderio. È fatto un programma e devi scegliere per il bene. Perché ora lo teniamo nella mano destra e non più nella sinistra? Dice di non suscitare il succhiare dei poteri impuri, così che lei succhia sulla sinistra, perché a sinistra i poteri impuri succhiano sempre sulla sinistra. La destra dice io do e al potere impuro non piace dare. Così quando l'uomo dà, allora il potere impuro non ha nulla cui attaccarsi, ma solo quando l'essere umano attira kokmah, saggezza, quello è piccante e il potere impuro vive di quello. Perché è così? Naturalmente l'uno verso l'altro è creato, ma anche perché nei mondi e in seguito con l'essere umano, il corpo spirituale di Adam ed altri peccarono e lui in quanto poteri si era sbriciolato. Ogni cosa come se fosse caduta così che l'essere umano potesse in seguito costruire il mondo con la propria ispirazione e iniziativa. Ogni cosa, tutti i poteri sono caduti giù, come bene, come i buoni poteri, scintille di luce, come di sinistra, poteri di Din. Ogni cosa cadde giù. Naturalmente, quando qualcosa cade giù, poi il più pesante cade più in basso, anche nel nostro mondo. In quanto poteri, Din è un po' più in là, dov'è il succhiare dei Klipot. È caduta. Sotto tutte quelle schegge c'è il posto, il reparto nell'uomo dei Klipot, al di sotto. Senza rottura, una persona non può imparare la Kabbalah. Senza rottura, una persona non può assolutamente costruire nulla nello spirituale. Una persona che solo cammina nella strada non è rotto. Forse alcuni problemi perché il vicino ha più di lui, ma dall'interno non è rotto. Si sente bene. Basta guardare la televisione. Spesso vedi persone che sono il sale della terra. È bello da vedere, ma Dall'interno, l'uomo ha bisogno prima di realizzare il suo proprio male. Quello è già un grande passo da affrontare, riconoscere il tuo proprio male. Vai nella strada e chiedi a qualcuno del suo proprio male. Dirà che la società e qualcun altro è colpevole, ma non lui. Può diventare migliore, ma certo che è meglio lasciarsi rompere dall'interno. Senza quello non c'è progresso. Le scuole ti insegnano a diventare ricco, dicono che non devi rompere te stesso. Devi solo imparare e diventerai più forte. Non so dove l'hanno trovato quello, ma io imparo lo Zohar, ma io insegno lo Zohar. Naturalmente, se vuoi progredire, hai bisogno prima di rompere e poi costruirti. Tutti quei peccati e tutti quegli sviluppi dell'umanità, siamo in ogni caso spezzati, ma devi sperimentare la frattura in te stesso e non pensare che tu sei intero. Quello è già un grande progresso se tu realizzi che sei spezzato. Il Creatore ama un uomo con il cuore spezzato. È molto speciale. Non capiamo cosa significhi un cuore spezzato. Significa molto. Significa che un uomo è già consapevole del suo proprio male, perché vede il Creatore di fronte a lui. Come si può essere consapevoli del proprio male? Ciò significa che riguardo a qualcosa sei consapevole del tuo male. Se non lo vedi ancora, allora sei ignorante, inconsapevole. È molto importante riconoscere il proprio male. Poi vedrai che tutti i clipot, poteri impuri in te, sono sotto tutte le tue scintille di luce. Le scintille di luce sono più leggere. Prendiamo un bicchiere, ad esempio, lo riempiamo con liquidi diversi. I liquidi pesanti cadono più in basso e quelli più leggeri vengono sopra. È lo stesso con le scintille di luce dopo la rottura. Sono qualitativamente più superiori. Il tuo interno spezzato ha la stessa costruzione come l'albero di vita, solo spezzato, ma la costruzione resta sempre la stessa. Proprio come una cellula del DNA ha una certa costruzione, una certa formula. Anche quando sei spezzato e non sperimenti nulla nello spirituale, anche allora la formula esiste ancora. Una molecola H2O, l'intero oceano, esattamente lo stesso. Quei poteri impuri sono poteri pesanti e dopo la rottura sono tutti in fondo, sedimenti. In quei poteri impuri ci sono ancora scintille di luce più pesante. Sono mescolati con i poteri impuri. Pertanto devi stare molto attento con loro. Proprio come stanotte, proprio quando volevo lasciare un ragazzo russo che mi aveva chiamato e che faceva anche un po' di Kabbalah in Israel. Disse aiuto. Ha 49 anni e ha attraversato ogni cosa. Mi ha detto aiuto. Naturalmente deve dirlo al Creatore. Non l'ho aiutato, ma gli ho detto un po' come uscirne. Gli dissi poche parole. Dovevo affrettarmi alla lezione. Ha detto: voglio fare del bene a tutti. Voglio uccidere il male in me. Ho detto che non può fare alcun bene a nessuno se vuole uccidere il male dentro di lui. E disse, oggi voglio romperlo. E ho risposto, allora ti spezzerà prima lui. La tua bontà non ha una singola base per esistere. Ha imparato molto dalla Cabala e ancora non lo capisce. Quando gli ho detto alcune parole, ha risposto, oh, quello è in quel modo così. Gli ho detto qualche parola, ma forse ne aveva bisogno. Forse era un po' confuso. Qualcosa sulla relazione amorosa. Forse una separazione può succedere. Ha detto che voleva rompere il suo male, ma abbiamo imparato che devi sempre dare al cane un piccolo osso e non romperlo, perché altrimenti inizierà ad abbaiare e premere sopra le accuse contro di te. Se vuoi romperlo, allora lui diventa due volte più grande. I problemi nella sua relazione con sua moglie, non poteva nemmeno uscirne. È fantastico. Puoi farne un film. Non provo nulla di quello che lui dice. È infantile. Ho ancora provato a dargli qualche consiglio. Gli ho detto, cerca di concentrarti dentro te stesso e andare sempre più profondo, più intenso, più profondo dell'amore per tua moglie, che è di carne e sangue. Fai ogni sforzo per amare il Creatore, tanto quanto ami tua moglie. Funziona la cosa? Difficile. Il mio consiglio per te è di lavorare su te stesso e di amare il Creatore un po' più di tua moglie. Quella è la tua salvezza. Solo allora puoi vedere la vera relazione con tua moglie, e altrimenti non vedi nulla, nessuna vera relazione. Quindi non romperlo, perché nelle parti rotte sono ancora scintille di luce, scintille pesanti, che puoi ancora levare. Pertanto dobbiamo sempre dare un po' al Sitra Akra. Dentro i poteri impuri c'è una grande luce, e per la quale non hai il potere di tirarli sopra, e tu vuoi romperli? Cosa ne rimarrà allora di essi? Solo il tuo amore per la tua amata. Un uomo nel nostro mondo è governato dal potere impuro. Mi ha anche detto che il Creatore gli disse di spezzare il suo potere impuro. Gli ho detto che il potere impuro può venire in forme diverse, travestimenti per ingannarti. Devi lavorare sul potere per tirare. Perché ho dovuto deviare, raccontare questa storia? Ora arriva tutto il punto della storia. I poteri impuri giacciono completamente al di sotto, anche con noi e anche con il più grande santo. Al di sotto di Yesod, l'organo genitale dell'essere umano, non lo chiamiamo in questo modo, riguarda i poteri interni. Ci sono attaccati i poteri impuri, essi traggono energia da lì. E poiché sono più in basso nella struttura dell'uomo, l'inferiore, più pesante è il potere e più alto e pesante è il raggio di luci che devono penetrare. Proprio come Hashem non voglia con il cancro, come è più pesante il tumore canceroso, più pesante è il corso della chemioterapia. È lo stesso nello spirituale. I poteri più pesanti e impuri tentano l'essere umano per attirare la luce Kokhmah. L'intero peccato dell'uomo è che cade in preda alla tentazione di poteri impuri. Anche nel nostro mondo, quando qualcuno è in un'altra città per affari, lontano da sua moglie e inizia a guardare gli altri, non c'è nessuno che possa vederlo. Il suo ego, il suo amore per se stesso lo accecheranno e diranno: «Oh, otterrai una tale scossa da questo. Puoi essere in grado di far fronte a tanto, ma devi sviluppare il potere per non diventare una vittima». Un uomo d'affari olandese si reca in un paese del terzo mondo e vede belle ragazze. Che cosa fa? In ogni aspetto il potere impuro dentro un uomo dirà: «Prendila, raccogli boccioli di rosa mentre puoi». Il potere impuro può diventare così forte dentro di lui. Lui deve riconoscerlo quando viene nella sua testa, nel suo pensiero. Poi cade nel suo cuore e ulteriormente si è venduto. Un uomo è molto debole. Quindi di quale lealtà si parla nella Chiesa o in qualsiasi altro luogo? Se un uomo vede qualcosa che giace e nessuno presta attenzione, allora lo prendi. Se pensi che non sia vero, allora non conosci te stesso. Quando lo riconosci in te stesso, che ogni cosa è in te, allora quello è l'inizio del tuo sviluppo. Dico a me stesso: sono un assassino, uno stupratore. Ricorda che abbiamo tutti i desideri noi stessi. Un essere umano ha ogni cosa che è nel mondo, tutti i poteri dentro di sé. Perché la manifestazione di tutti i poteri, anche i poteri impuri nel nostro mondo, non è solo sviluppato dentro di te. O anche Hitler in me stesso e Mosè. Tutti questi poteri sono presenti dentro di te. Solo ciò che fai con essi, quello è importante. Uno diventa un distruttore. Ogni uomo ha il potere dentro di sé di diventare Caligola, ma non è sviluppato dentro di te. Non ci sono persone nel nostro studio che pensano di essere buone. Il principio di base del vero studio è che tu vieni qui e dici che hai tutti i peccati dentro di te. Se non lo vedi ancora, allora non sei pronto per lo spirituale. Quelli che vanno in istituzioni come i templi si sentono completi, perfetti. Anche quando peccano non sentono di peccare. Ok, è successo qualcosa, ma io rimango pulito. Conosco persone attraverso internet dall'Olanda, dal Belgio, dalla Germania, eccetera. E le persone che non lavorano ancora su se stesse mi chiedono ogni tipo di domanda personale. Non rispondo mai. Do solo risposte generali. Ho avuto una relazione e ora inizio con una nuova relazione e ho tutti i tipi di sentimenti. Sono pulito e non ho il sentimento di aver peccato, rimanere come un bambino. Allora un uomo non è pronto per lo spirituale. Devi solo dargli una patata, dai loro il meglio. Ma essi vogliono patate, vuole la massa. Appartiene ancora allo spirito di massa e non è pronto per vedersi come un individuo, a entrare in una relazione individuale con il superiore. È così. Poiché il potere impuro è così basso nel livello inferiore dell'uomo, allora la luce più leggera, luce Chassadim, non è sufficiente a brillare attraverso i poteri pesanti dei poteri impuri, per renderlo più trasparente. È come una raffinazione. una raffineria che, per esempio, non ha abbastanza capacità per rompere il petrolio greggio. Può rompere cose diverse, ma non il petrolio greggio. Per rompere i poteri pesanti, allora ovviamente hai bisogno di un enorme potere di rottura, e quello è luce Kochma. Perciò tentano l'essere umano a tirare giù la luce Kochma. E quando un uomo lo fa, promettono all'essere umano la fine del mondo, un enorme piacere quello che un uomo riceverà. E l'essere umano diventa una vittima e si sente ingannato e non capisce come tutto funziona. E tutta la sua vita si ripete, va dal terapista e così via, ma non si libera da esso. Devi fare un lavoro interiore. Pertanto lui dice che porti la coppa alla mano destra e non che la tieni con le due mani, perché la parte sinistra succhia i poteri impuri. Hai ricevuto Chassadim e ora puoi ricevere una lucentezza, un po' di Kochma, saggezza, e cioè carne e bevande per i poteri impuri. Quindi dice che devi tenerlo nella mano destra, così la sinistra non è mescolata con la destra. La parte buona della mano sinistra è ora passata sulla mano destra e ogni cosa che succhia rimane fuori. Da un lato, il lato sinistro, Din, il rigore, desidera Kochma, perché quello è ciò di cui ha bisogno. Din è un buon potere. Ci sono due poteri, Din e Chassadim, ed entrambi sono buoni poteri. La creazione è creata in questo modo, ma la sinistra vuole coinvolgere Kochma. Se Kochma è attratto con moderazione e sopra la nostra metà e non sotto la nostra metà, allora è un buon ricevimento. Zohar chiarirà ogni cosa. Tenendo la coppa nella mano destra e non nella sinistra, significa che tu prendi distanza, non permetti ai poteri impuri di succhiare nel lato sinistro, Gvurot, di partecipare nell'ascesa. Seconda parte della lezione. Ascolta solo. Accettalo senza usare la tua mente. Io uso molte elaborazioni liriche, ma è necessario finché non diventiamo ricettivi e siamo in grado di assumere le informazioni spirituali quasi senza parole. Lo spirituale è semplice. Anche le parole che usiamo sono semplici. Cerco anche di usare quante più parole semplici possibili. Ogni cosa che è intellettuale ci ostacola. Vedi quante volte ripeto le cose? Hai bisogno di avere l'atteggiamento giusto. Allora sarai in grado di crescere molto velocemente nel nostro studio. Salvati da molta sofferenza. Viene ancora e ancora, ancora miseria. Sbatti la tua testa di nuovo contro un muro di mattoni. Salvati da quella miseria. Linea 26. E quello è ciò che lo Zohar dice. Da qui e oltre diventa luce. Cosa significa luce? Se apriamo la storia della creazione, vediamo che dopo la terza volta che il nome Elohim è usato e Hashem disse sia la luce, solo allora è scritto sia la luce. Così dopo la terza volta che il nome di Elohim è usato e scritto sia la luce. Cosa vuol dire lo Zohar? Prima abbiamo detto il nome di Elohim, è il creatore, e in secondo luogo abbiamo visto che ogni cosa era il processo di costruzione della Nuvah, la creazione. Malchut, il regno dei cieli. Quello è ciò che nel principio della storia della creazione è costruito. Lo abbiamo visto nella prima fase. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve ha-aretz. Nel principio Elohim, il creatore, ha creato il cielo e la terra. Poi il nome di Elohim è usato per la seconda volta e poi per la terza volta. Tutti gli stadi nella costruzione della costruzione di Nukva e quella è la creazione. Quando la Nukva è costruita fino a Malkut, allora lei può lasciare che la luce entri in se stessa e lasciare che altre creature siano create. Siamo un prodotto di essa. Prima Bria, Yetzirah, Asiyah, e poi il nostro mondo, e anche noi nel nostro mondo. La storia della creazione è su Malkut, regno dei cieli. La religione ne parla. Ho sempre voluto sapere di cosa si trattasse. Viene dalla Torah. Malkut Shamaim. Il popolo l'ha tradotto come regno dei cieli. Ma cos'è esattamente? Dov'è? Possiamo indicarlo esattamente dove sta nella Kabbalah. Più tardi saremo anche in grado di sentire esattamente dov'è il regno dei cieli. Non è grandioso? Ho viaggiato in tutto il mondo e nessuno poteva darmi una risposta. Zohar ci dice che possiamo strutturarlo dentro noi stessi. In me stesso posso cercare parallelismi con il regno dei cieli. Poi non sono più cieco. Passo dopo passo ti svilupperai secondo il piano creativo, come il creatore vuole che siamo come lui. Un essere umano deve sforzarsi di diventare proprio come il creatore in quanto qualità. Potete immaginarlo con tutto il dovuto rispetto. È importante sapere e non dimenticare mai che non siamo ciechi e che non siamo sottomessi al destino. Un essere umano è assolutamente libero di costruirsi completamente e perfettamente. Insieme con il tuo studio, la tua fiducia, Emunah, deve crescere. Potere di fiducia e non solo sì, io credo. Il potere deve venire dall'interno dello studio attraverso il quale ti costruisci e permetti a te stesso di essere costruito. Devi lavorarci su, se non ci arriverai con la tua testa. 3 volte abbiamo visto il nome di Elohim nell'inizio della Torah. Segue poi sia la luce. Cosa vuole dirci lo Zohar? Fino ad ora Nukva è stata costruita per essere in grado di ricevere Hasadim. La coppa fu portata da sinistra a destra. Hasadim era ricevuto. Questa è la prima fase di Gadlut, grande stato. 10 Sfirot. È già costruita. E ora nella Torah arriva la creazione della luce e indica che questa è la seconda fase della ricezione di 13 parole, Gadlut del grande stato. Zohar indica che questo si riferisce a sia la luce nella Torah. Guarda cosa succede oltre. Cioè, quando Elohim fu chiamato, nella storia della creazione, nel dire sia la luce, eccetera. Abbiamo già visto che la Nukva ha costruito se stessa, ha ricevuto finora Chassadim. Così, nell'inizio, Malkut, il regno dei cieli, fu costruito nel modo che una sfira Keter era sopra e 9 erano caduti in Bria. Quello era l'inizio. Poi è stato detto che c'erano anche 5 parole, e quello è l'ulteriore sviluppo della Malkut con cui costruisce 5 foglie dure. E quello è il Masak, il potere anti-egoistico, lo schermo, ma lei non riusciva a riflettere la luce. Poteva solo dire no, non ricevo la luce. Non aveva ancora alcun potere. Potremmo dire che non possiamo ricevere la luce perché non abbiamo alcun potere. Potremmo provare tutto il piacere del mondo in noi stessi, ma non abbiamo il potere. Allora dici che non vuoi essere ricco e altre cose, perché non hai il potere. Se tu avessi il potere, lo faresti. Questo è un esempio del nostro mondo, ma è anche lo stesso nello spirituale. Non ho il potere e quindi dico no. La fase successiva è quella che abbiamo appena letto, che la Malkut, Nukva, potrebbe già riflettere 5 Gvurot e ricevere 5 Chassadim. Lui traccia un parallelo con la Torah, con la storia della creazione. E ora dice che la terza volta che viene usato il nome di Elohim, che quello è l'inizio della ricezione della luce. Pertanto è scritto, sia la luce. La luce è Or, e quella è già luce Kochma. Sia fatta luce significa che la creazione ora non solo può ricevere Chassadim, misericordia, ma ora è anche in grado di ricevere uno splendore, un po' di Kochma. E solo questo dà vita alla creazione, e non solo misericordia, amore, perché la creazione non può vivere solo di amore. Anche noi non possiamo vivere solo da Chassadim. Ok, forse le vacanze, 2 settimane, ma dopo devi sviluppare la tua parte sinistra. Che cos'è un uomo adulto? Più lui dà, più vuole e può dare. E cosa vediamo nella realtà? Prima una relazione bellissima e perfetta. Vanno al cinema e si danno un bacio e poi oltre. Hanno molto da fare l'uno con l'altro e dopo alcune settimane non ha voglia di fare nulla. E lei non ha voglia di fare nulla, perché entrambi vogliono ricevere per loro stessi. Entrambi diventano indifferenti, sovraffaticati. Un uomo che lavora su se stesso non si fa mai prendere dall'amore. Un cabalista ha fino all'ultimo respiro il potere di amare sua moglie. Uno lo proietta sul nostro mondo, ma quando impari la cabala, poi hai sempre una relazione con tua moglie, con il tuo lato sinistro, e una donna ha sempre una relazione con il suo potere maschile, il suo lato destro, e poi sei completo. Uno si chiama uomo solo quando sperimenta entrambi i poteri dentro di sé. Quando impari la Kabbalah, Madonna l'ha scoperto, allora non hai bisogno di una cura rigenerante. Puoi fare tutto fino all'ultimo respiro. Hai il potere di farlo. E non che tu per un momento e poi sei pronto e inizi a fantasticare. Non importa cosa fai, a causa della Kabbalah, avrai sempre il desiderio di fare di più. Il potere creativo dentro di te verrà a galla. Abbiamo già detto che è necessario utilizzare la batteria fino a che non è completamente vuota. Quindi durerà più a lungo. Quando si utilizza solo un po' la batteria, allora si romperà velocemente. Cioè, la terza volta che Elohim è usato, è chiamato nel detto sia luce e così via. Ciò significa che in quel momento la Malkut può ricevere la luce della creazione e può trasmetterla ai mondi inferiori, Briah, Yetzirah, Assiyah e nel nostro mondo. Guarda come è strutturale, semplice e ancora brillante. Per emanare l'aspetto del grande Gadlut, stato adulto, della Nukva. Nukva e non Malkut, perché lei viene ora al suo grande stato, che è il segreto dei cinque Hassadim. Lui dice che Gadlut sono cinque Hassadim. Quella è la prima fase di Gadlut, la prima scesa di Nukva a Zeirampin. Nukva sale a Zeirampin e riceve Hassadim, misericordia. Poi lei sale da Zeirampin a Binah e riceve lì uno splendore di Chochmah, saggezza, che le dà la vita, quindi non solo Hassadim. Allora cos'è Gadlut, grande stato della Nukva? Quelli sono i cinque Hassadim, proprio come cinque dita della mano destra. Quella è la prima fase del suo Gadlut. Prima lei lo ha riflesso, poi l'ha tirato sopra Zeirampin, dove lei ottiene Hassadim. E poi lei non riflette più Gvurot, è ora nel livello di Zeirampin. Quando un inferiore va al superiore, diventa come il superiore. Nukva è ora situata al livello di Zeirampin. Ora una luce superiore viene da sopra, luce Chochmah, e lei la riflette con Hassadim di Zeirampin, e la luce Chochmah entra, che è la seconda fase ed è 13. E 13 qualità, letteralmente perdono, di misericordia, solo lì lei riceve la luce di misericordia. La luce di misericordia è luce Hassadim con un luccichio, uno schizzo di Chochmah. Vedi tutto che cos'è? Solo Hassadim non è abbastanza. Questo è il modo in cui il Creatore ha creato la creazione. Questa è la seconda fase. Lo vedete tutti, passo dopo passo. Non pensare se lo capisci. Non si tratta di comprensione. Ognuno di voi ce la farà. L'unico problema è la tua mente, l'intelletto. Nessuno ti toglie la mente. Se la lezione è finita e vai fuori, avrai lo stesso intelletto di prima, ma quando lavori con lo spirituale, l'Eterno, come puoi provare a capire l'Eterno con la tua mente egoistica? È possibile? Assolutamente no. La nostra testa è al 100% egoistica, vuole solo ricevere per se stessa o per la sua famiglia, che è esattamente lo stesso. Tutto per me stesso. Come posso portare l'Eterno nella mia mente terrena? È assolutamente impossibile. C'è solo un modo, e quello è di rinunciare alla tua mente, che tu vai sopra la tua mente. In questo modo ti rendi ricettivo per sperimentare l'Eterno. Se qualcuno inizia con la Kabbalah, lo spirituale, poi naturalmente cerca di farlo con la testa, la mente. Anch'io ho provato all'inizio con la mia testa. Tutto dipende da te. L'intero punto è il grado di consegna al desiderio di ricevere il superiore. Se Madonna, una donna d'affari, si esibisce da qualche parte con tutte le danze, lo spettacolo, eccetera, è al 100% disciplinata, allenata. Pensiamo che sia spontaneo, ma ogni movimento è delineato. Il suo corpo deve obbedire alla sua mente. La sua mente ha il potere sulle esibizioni che lei fa. E poi torna a casa e fa la Kabbalah. Come? In quel momento deve rinunciare completamente alla sua mente, altrimenti non funzionerà. Devi fare lo stesso, indipendentemente dal lavoro che fai. Benedizioni, successo, ogni cosa è nelle tue mani. Nulla viene da sopra se non è stimolato da sotto. Andiamo oltre con quello che dice. Cosa significa Gadlut? Dice che sono cinque Chassadim. Quella è la prima fase di Gadlut. Lei ha Gvurot e ha bisogno di Chassadim per ammorbidire un po' i suoi Gvurot. E 13 perdono di misericordia. Quello è lo stato adulto di Malchut. Di cui i cinque Chassadim è il segreto. Traccia un parallelo, i cinque Chassadim. Nella Torah un accenno è dato, nella storia della creazione la parola luce è usata 5 volte. Ci mostra un certo processo spirituale della crescita della Nukva e ci dice: guarda la Torah, ci lascia un indizio nella storia della creazione, di cui 5 volte, non 4 o 6 volte. Luce è chiamata e che accenna alla prima fase della ricezione del Gadlut. Il Creatore disse: sia fatta luce. Se vuoi imparare la Kabbalah, allora hai bisogno di conoscere la storia del libro di Mosè. Basta leggerlo alcune volte, senza capire nulla. Basta sapere di cosa si tratta. Che sono, il primo uso della parola luce è «sia fatta luce», la seconda è «fu luce» e il Creatore vide che la cosa era buona. La luce che è buona, quella è la terza volta. La quarta volta la parola luce è usata, Elohim ha separato la luce dall'oscurità. Tra la luce, e lui chiamò la luce giorno. Nella Torah, la storia della creazione, la parola luce viene usata 5 volte. Lo Zohar ci dice che è un accenno del primo ricevimento della Nukva, di Chassadim. Quello è ciò di cui parla la Torah. Capisci cosa intendo? In questo modo penetriamo il piano creativo del Maestro. Guarda come procediamo bene e non rimanere ciechi con tutte quelle storie e interpretazioni della Torah. Tutto per bambini, anche la mia gente, vanno in giro con lunghe barbe, ma non capiscono niente. Anche i miei fratelli ogni giorno leggono la Torah e non capiscono una parola. Naturalmente ci sono anche enormi cabalisti che hanno una conoscenza enorme, anche di Zohar, ma non possono collegarli insieme. Se qualcuno è ortodosso, allora non può essere un cabalista, altrimenti interpreta una commedia. Naturalmente qualcuno può anche andare in giro in abiti neri ed essere allo stesso tempo un cabalista, ma non puoi collegare questi due insieme. Proprio come in passato, se qualcuno diventa un cabalista e vive in un distretto ortodosso, allora è legato alla cultura, ma dall'interno non è più un ortodosso. Un ortodosso lo fa solo con le mani e i piedi, senza capire cosa fa. Non è importante per lui. Un cabalista già sa cosa fa, è concentrato sull'obiettivo della propria vita, che è collegato con l'obiettivo della creazione riguardo a lui. È al di sopra di ogni cosa di ciò che un uomo in questo mondo può aspettarsi. Così la luce è chiamata 5 volte e che si riferisce ai 5 chassadim. E le 13 qualità di misericordia c'è un accenno dato nella scrittura del verso e ci fu sera e ci fu mattina giorno 1. E fu sera e fu mattina giorno 1. Da nessuna parte c'è scritto primo giorno. Se è tradotto come primo giorno è per ignoranza dei traduttori. Hanno fatto del loro meglio, ma non capiscono come funziona. L'accenno sulla seconda fase del grande stato è stato dato nel verso e ci fu sera e ci fu mattina giorno 1. Come possiamo vederlo? Perché numero 1 è il segreto di 13 ed è anche gematria 13. Alef 1, Ket 8, Dalet 4, totale 13. Dice che l'accenno sulla seconda fase del Gadlut è dato nella parola Echad 1. Ora possiamo immaginare un po' quando diciamo «Ascolta Israel, Hashem è uno». Allora intendiamo ovviamente uno stato superiore con il quale uno significa 13, perché uno è il valore numerico di 13. Così, quando diciamo che il creatore è uno, allora siamo circondati da 13 qualità di misericordia, il quale nessun potere impuro ha il potere di succhiarci. Nella pagina successiva è il commento Marglot a Sulam, visione di Sulam, e lì ci spiegherà ogni cosa in un grande uso linguistico. Senza Yehuda Ashlag non sarei nemmeno in grado di capire una singola parola. Il linguaggio, come l'ha scritto un uomo divino. Lo ha scritto tutto durante l'inizio degli anni 50. Senza di lui non sarei in grado di imparare Ari e senza entrambi non saremmo capaci di capire lo Zohar. Il Creatore ci ha dato quei 3 e con quelli la salvezza. Passo dopo passo impareremo a ricevere la salvezza. La riceviamo ogni giorno, inosservata. E queste 5 luci, di cui si parla nella Torah è il segreto di ciò che l'uomo saggio disse alla luce che il Santo Uno, benedetto sia Egli, che creò nel primo giorno e Adamo poteva vedere in quella luce da un'estremità del mondo fino all'altra. Che cos'è il mondo? Malkut del mondo Azilut. Adam poteva vedere prima del suo peccato tutti i gradi, era completo. A volte dice Hashem il nome, a volte dice Elohim, a volte Avaya, e qui Akadosh Baruch Hu, il Santo, benedetto sia Lui, il Santo Uno, benedetto sia Lui. Ogni cosa ha potere e ci sono diverse espressioni di ciò. A poco le useremo e non sempre creatore, perché quello dà poche informazioni. Stiamo andando a usare i nomi del creatore che riflettono quei poteri. Qui e nella lezione faremo uso dei poteri. Abbiamo iniziato a farlo. Invece di creatore diciamo Hashem. Dal momento che il Santo Uno, benedetto sia Lui, la luce stessa, Ein Sof, vide nella generazione della grande inondazione, diluvio, e nella generazione della torre di Havel, di Babel, Babele, che le loro azioni di quelle generazioni erano cattive azioni, significa anche rompere, che quelle generazioni hanno rotto le cose che furono create. Sappiamo che la generazione prima del diluvio, più tardi impareremo che genere di peccati terribili hanno commesso. Quello che allora era un peccato enorme, ora è un pezzo di torta. Impareremo quale peccato era. Non voglio correre davanti alle cose, lo vedremo dopo alcune pagine. Ma se diventiamo consapevoli delle conseguenze di quel peccato e ci puliamo, gradualmente otterremo la luce di cui anche Adam poteva vedere da un'estremità all'altra. Ciò significa che poteva vedere la luce completa. Il Creatore disse quello così in modo che potessero realizzare che avevano peccato, fecero azioni sbagliate in quelle due generazioni. Egli si ritrae lui stesso e nasconde la luce da loro. Lo vedi? La luce era pensata per la creazione. Non è che il Creatore compia un atto. Lui vuole che prima facciamo i nostri compiti e poi otteniamo una nuova posizione, uno stipendio più alto, otteniamo luce. Ma perché noi, Adam, abbiamo peccato, pertanto la luce doveva essere nascosta fino a quando potessimo lavorare di nuovo il potere, potessimo correggerci dal basso all'alto, desiderarlo, e allora possiamo ricevere la luce. Ogni cosa è assolutamente per noi. Ogni persona può portarsi alla completezza. Nulla viene dall'alto se non viene stimolato dal basso. Nulla viene da sopra, assolutamente niente. Devi chiamarlo e poi arriverà di sicuro. Ma tu devi farlo e non qualcun altro o una chiesa, una sinagoga, un rabbi. Un rabbino può forse darti una piccola spinta, ma alla fine tu devi farlo. Solo tu e non la chiesa, la sinagoga o qualcun altro può farlo per te. E lui nascose la luce che era con la creazione, che è stata chiamata 5 volte. E quello è ciò che ha detto nello Zohar. Lui la creò e lui la nascose, quella luce, perché l'uomo non è riuscito a gestirla. E quello è ciò che lui dice, e lui ha racchiuso quella. Ecco un enorme segreto e un'enorme salvezza, se più tardi impareremo cosa significano quelle parole. Lui ha racchiuso quella. Lui ha portato tutta la luce da qualche parte in basso e l'ha racchiusa in un patto. Significa anche Yesod. Impareremo cosa è tutto. Qui è un enorme segreto. Senza sperimentare il potere di Yesod dentro di te, vedremo cosa significa tutto ciò. Lì dentro è la salvezza. Lì puoi vedere il Creatore. Qualcuno può dire quello che vuole, ma se non sperimenta Yesod, allora non ha visto la luce. È assolutamente impossibile. Capisci? Un uomo ha bisogno ogni volta di avere un atteggiamento. Abbiamo 10 sfirot in noi stessi e devi essere sempre connesso con il tuo Yesod. Non l'organo genitale, ma con il potere che corrisponde a quel luogo com'era dall'interno. Il potere viene da lì. Hai 10 sfirot e attraverso il tuo Yesod puoi riflettere la luce più alta. Attraverso il tuo Yesod e non attraverso il tuo cuore, perché attraverso il tuo cuore otterrai solo un breve riflesso. Riflettendo il tuo Yesod c'è un enorme segreto. Prima che lo Zohar fosse dato, solo pochi al mondo potevano vederlo dall'alto. Tutti possiamo realizzarlo dentro di noi. Gradualmente sentiremo più potere nei nostri Kelim. Prima Keter e poi Kokhmah. Avremo potere per Kokhmah nei nostri Kelim, da sopra a sotto, finché non verremo a Yesod. Il posto di Yesod è l'ultima stazione e da lì arriva la luce più alta che possiamo raggiungere e la salvezza. E la luce riflessa è così grande che possiamo ricevere le 13 qualità di misericordia solo se possiamo riflettere la luce dalla posizione di Yesod. Pertanto il popolo ebreo doveva fare Brit Milah. Brit Milah. Tutto ha a che fare con lo spirituale. In questo modo i 3 poteri impuri nel prepuzio sono come se fossero stati tagliati. Naturalmente è spirituale. Un non ebreo che non è circonciso, ma impara a lavorare sul potere da sotto del suo Yesod, come se fosse circonciso nel suo cuore, è anche di ricevere la luce, ma gli ebrei sono sacerdoti del mondo, sono nominati in questo mondo come sacerdoti. Devono lavorare duro su se stessi e sugli altri. Pertanto gli ebrei dovevano avere una dimensione in più per circoncidere se stessi e una moglie ebrea deve stare attenta con le sue mestruazioni, che non ha rapporti sessuali con suo marito mentre ha le mestruazioni. Ogni cosa è derivato dai poteri spirituali. Impareremo che tutto è derivato dai poteri spirituali. Quello è lo spirituale e non quelle storie che vengono raccontate sull'Immacolata Concezione. Sono tutte fantasie dell'uomo non corretto. Non è dato al mondo. Puoi venire allo spirituale solo attraverso l'ebreo dentro di te. Non conoscono assolutamente nulla dello spirituale. Ad esempio, non esiste nulla di spirituale nella teologia, nelle cose cristiane. ma c'è qualcuno che parla di spiritualità. Ricorda quello che dico se vuoi la salvezza. Il salvataggio esiste solo nelle tue proprie correzioni e non nell'Immacolata Concezione, perché quello è tutto senza senso. Re David aveva i poteri di Malkut. Re significa corona, quindi era il Keter di Malkut. David si sposò con Bathsheba, la moglie di Uria, era già sposata, quindi non era assolutamente vergine. E più tardi da lei viene il Mashiach. Il liberatore viene da lei e non dall'Immacolata Concezione. Sgomento, capisci? David ha sposato questa donna perché dall'alto era predestinata per lui. La prossima volta vi dirò come tutto viene. Nella sorgente c'è solo un'anima. Ogni anima esiste fuori di due, maschile e femminile. E quando viene sulla terra è divisa in un corpo maschile e un corpo femminile. Un uomo ha sempre bisogno di cercare la sua propria anima femminile, che è inserita in un corpo femminile, e solo allora riceverà il proprio compimento. Era lo stesso con David. Naturalmente aveva anche un'altra moglie, e così, ma la sua anima femminile, il suo lato femminile, la sua compagna nel superiore era la moglie di Uria, l'altro uomo. E poi lui peccò mandandolo sul fronte orientale per abbatterlo, ma lei era pensata per lui. Un uomo può avere tre matrimoni, non importa quanti matrimoni hai, finché trovi la tua nukva, il vero partner, tua moglie, che da su è pensata per te. Guarda le famiglie religiose, lì ci si sposa alla prima occasione possibile che altre persone scelgono per te. Vengono creati 10 bambini, ma era lei quella per lui? Devi cercare. Un uomo a volte può attraversare gli oceani per trovare la sua compagna, che dall'alto è la stessa anima, ma la parte femminile. Ogni donna si sente bene anche quando lei riceve l'uomo giusto. La trova, capisci? Vedremo le vere relazioni della Torah. Cosa avete con una moglie che è vergine? Quello è positivo solo per il tuo ego. Puoi anche sposare una donna che è già stata sposata alcune volte, purché trovi la tua nukva, purché sia il tuo elemento femminile della tua anima. Quella è santità. La santità non sta mettendo su un atto che danneggia con tutti i mezzi una donna che è una vergine pensando che ciò è santo. Assolutamente no. Santo è ciò che è santo nel superiore, allora è anche santo sulla terra. Passo dopo passo impareremo lo spirituale e non una commedia. Il meglio per questa settimana è quello di cercare il proprio partner.